La storia e la memoria di Dino Pesole. La cosiddetta questione meridionale accompagna, come ben sappiamo, il nostro paese fin dai primi vagiti del neonato Regno d'Italia nel 1861. La profonda spaccatura che emerse allora tra il nord e il sud del paese non è stata ancora ricomposta. PIL pro capite, condizioni di vita, diritti sociali, libertà civili, scrive Emanuele Felice nel libro Perché il Sud è rimasto indietro, pubblicato dal Mulino, dicono che il Mezzogiorno rimane arretrato rispetto all'Italia e all'Europa. Le motivazioni al riguardo divergono, però. Alcuni parlano addirittura di una diversità cosiddetta genetica dei meridionali, oppure risalgono indietro nel tempo fino alla monarchia normanna. Altri puntano il dito contro il Nord, colpevole di aver sfruttato un Sud che prima dell'unità sarebbe stato florido e avanzato, oppure chiamano in causa una sfavorevole collocazione geografica. Secondo Emanuele Felice, sono state anche le classi dirigenti meridionali a ritardare lo sviluppo, dirottando le risorse verso la rendita più che verso gli impieghi produttivi. Al sud occorre dunque modificare la società, spezzando le catene socio-istituzionali che la condannano all'arretratezza. Ne parliamo stasera proprio con l'autore del libro, che salutiamo. Buonasera. Buonasera. Emanuele Felice insegna storia economica all'Università Autonoma di Barcellona. L'Unità d'Italia è un evento fondamentale della storia europea, che rompe definitivamente gli equilibri del Congresso di Vienna e fa da premessa anche all'unificazione tedesca di poco successiva. A differenza che in Germania, promotore dell'impresa non è però lo stato più importante, da noi il Regno delle Due Sicilie, ma il Piemonte. Contrariamente a quanto un certo revisionismo si ostina a riproporre, il Regno Sabaudo era già allora più avanzato del suo vicino meridionale, pressoché da ogni punto di vista: le istituzioni, le infrastrutture, gli indicatori sociali. Nord e Sud si presentano all'unità già divisi. A differenza di oggi, però, gli scarti negli indicatori sociali erano più marcati che nel reddito. Da allora, ai nostri giorni, le due dimensioni hanno seguito andamenti opposti. Seppure in un percorso non sempre lineare, il Mezzogiorno ha in gran parte colmato il suo svantaggio negli indicatori sociali. Nel reddito la divergenza è stata la regola, tanto che oggi il divario nord-sud si misura soprattutto in termini di PIL pro capite. Bene, allora, professor Felice, la responsabilità delle classi dirigenti meridionali, ecco, su questo vorrei, inaugurando questa nostra conversazione, focalizzare l'attenzione. In che modo e in quale misura le classi dirigenti meridionali hanno contribuito a far sì che la questione meridionale non si riuscisse a risolvere? I grandi proprietari terrieri non avevano interesse ad avviare un'industrializzazione del Mezzogiorno, perché estraevano la loro ricchezza dalla rendita della terra. E non avevano interesse nemmeno ad avviare a rafforzare l'alfabetizzazione e l'istruzione del Mezzogiorno, perché i rendimenti dell'alfabetizzazione sono più bassi in un contesto agrario rispetto a un contesto industriale. Quel che hanno fatto con l'Unità d'Italia, dopo un iniziale spavento, se ricordiamo il libro di Filippo Tommasi di Lampedusa, Il gatto pardo, quel che hanno fatto è stata un'alleanza con le classi dirigenti del Nord, che invece erano industrialiste. E l'alleanza è consistita nel mantenere un assetto duale dell'Italia. Ad esempio, le faccio due esempi. Quando l'Italia è stata fatta, aveva un debito pubblico abbastanza alto, perché erano state fatte delle guerre, perché il Piemonte aveva fatto infrastrutture e scuole. Questo debito pubblico esteso all'intero paese andava pagato. C'erano due modi per farlo pagare: e mettere le tasse sulla terra, estendendo al sud il catasto lombardo, che era molto severo, oppure limitarsi a scegliere di tassare il consumo, che colpiva maggiormente i ceti umili, mentre invece la prima misura avrebbe colpito i baroni. È stata scelta questa seconda strada, e quindi la tassa sul grano, il macinato, eccetera, sì, preservando i baroni. Poi più tardi, questo con la destra storica, poi più tardi con la sinistra storica, dal 1876 in poi, si è avviata una politica protezionista di dazi doganali per industrializzare il paese. Tuttavia, accanto alle misure che proteggevano l'industria del nord, si scelsero misure che proteggevano gli agrari del sud, ed erano in particolare il dazio sul grano. Ora, qual era la conseguenza di fare il dazio sul grano? Che il pane costava di più, e costava di più tanto per gli operai del nord quanto per i braccianti salariati del sud. Quindi si tratta di condizioni molto precise che determinarono in quegli anni questa spaccatura. Sì, poi c'è l'esempio della mafia, Camorra, che sono ceti borghesi che si alleano con gli agrari del sud o con il mondo aristocratico del sud per estrarre rendita, ma non secondo quelle che sono le regole dell'economia di mercato e della modernizzazione come l'abbiamo conosciuta. E anche la Camorra e la mafia si alleano con le classi dirigenti del nord quando viene fatta l'unificazione d'Italia. Però quindi la questione non è da porre sud contro nord, ma bisogna guardare dentro il sud e distinguere nel sud le colpe, ma io parlo di dolo, delle classi dirigenti del Mezzogiorno rispetto a quelli che ne sono stati vittime, che sono stati cittadini, la gran parte dei cittadini meridionali, molti dei quali se ne sono andati. Non dimentichiamo che c'è stato un esodo migratorio enorme dal Mezzogiorno, e quelli che sono rimasti e che continuano a rimanere, escluso me, che anch'io me ne sono andato all'estero, spesso si sono adattati col voto a questo stato di cose, accontentandosi di favori che invece in molti casi spettavano in quanto di diritti, accontentandosi di favori in cambio del voto. E a proposito di mafia, in uno dei paragrafi del suo libro, lei dice è opinione diffusa che la mafia sia nata in Italia con l'unificazione. In realtà poi non è propriamente così. No, infatti la mafia nasce nello Stato borbonico. La mafia e la camorra anche. Questi sono due fenomeni, e molto cioè con l'unificazione cosa succede? Si diffonde il termine mafia, viene conosciuto, viene rivelato il termine mafia. Il fenomeno nasce nello Stato borbonico, dopo la restaurazione susseguita al periodo francese, eccetera, quando i Borboni mantengono le strutture amministrative dello Stato francese, che includevano l'abolizione dei feudi, che comportava tutta una serie di riforma delle terre, eccetera, però senza avere la forza dello Stato per amministrarle, perché non volevano imporre tasse agli agrari per non creare malcontento. Poi ci fu anche una rivoluzione 1820-21 vittoriosa, poi sconfitta dall'Austria, quindi i Borboni erano stati rimessi là dall'Austria, avevano paura di creare malcontento, quindi non mettevano tasse, quindi non avevano una giustizia che funzionava, avevano una polizia corrotta, eccetera. Allora, in questo stato di leggi incerte, perché andavano cambiando, i ceti ricchi del sud, agrari in Sicilia, eccetera, cercavano di crearsi giustizia da sé. Certo. E attraverso la creazione di milizie armate. Ecco, una questione infine volevo sottoporle. Nel suo libro lei sottolinea come il Mezzogiorno abbia nel corso dei decenni in gran parte colmato il suo svantaggio negli indicatori sociali rispetto al resto del paese, mentre per quanto riguarda il reddito la divergenza è stata la regola, tanto che appunto oggi misuriamo il divario in termini di PIL pro capite. Ma questo è una conseguenza irreversibile, oppure secondo lei si può agire? Questi andamenti dissonanti dei diversi indicatori. Esatto. Io li spiego appunto con quest'idea della modernizzazione passiva. Cioè modernizzarsi in alcuni indicatori, come ad esempio nella speranza di vita, è più facile. Perché? Perché non comporta una messa in discussione dei rapporti sociali esistenti. Nell'istruzione è già più difficile, perché le classi istruite poi reclamano, e quindi la modernizzazione, perché le classi povere che ottengono l'istruzione poi reclamano diritti, eccetera, e quindi la modernizzazione nell'istruzione avviene solo quando la impone lo Stato centrale. Nel reddito è ancora più difficile, perché innanzitutto modernizzarsi nel reddito richiede a certi livelli un mondo competitivo dove prevalga il merito rispetto al favore, cioè, e quindi poi favorisce di per sé l'emergere di ceti nuovi, borghesi, eccetera, che sfidano il predominio dei ceti che invece vi sono. E quindi nel reddito è stato molto più restio a modernizzarsi. Pensate che storicamente nella storia d'Italia non si è creata nella prima rivoluzione industriale e nella seconda rivoluzione industriale nessuna grande impresa del sud. sono imprese importanti, sono tutte nate al nord. E la modernizzazione anche nel reddito è arrivata dallo Stato centrale con la cassa per il mezzogiorno, eccetera, e le classi dirigenti locali, ora non più agrari, bensì mediatori politici tra la periferia e il centro, vi si sono adattate utilizzando quelle risorse che arrivavano come mezzo di consenso elettorale. E mentre prima estraevano la rendita dalla terra, ora la estraevano dai finanziamenti pubblici dello Stato. In conclusione, in brevissimo perché siamo quasi alla fine del nostro spazio, ma noi siamo condannati in modo irreversibile a questo dualismo? Non lo so, non lo posso sapere. Il mio libro è stato scritto perché vedevo questo rischio che si manifesta come anche nel fatto che un'area di Sud Italia che rimane arretrata rispetto all'Italia e all'Europa ha iniziato a costruirsi una narrazione mitologica giustificatoria di questa arretratezza, fondata sul fatto che il Sud prima dell'unità era ricco, che è stato sfruttato, che è colpa degli altri. Cioè, sicuramente questa narrazione consolida l'arretratezza perché non consente di aggredire quelli che sono i veri mali. È come se uno che ha un cancro gli si dice ma non hai il cancro, è un'altra cosa, non riesce a curare il cancro, ovviamente. Quindi lo scopo del mio libro era questo, dopodiché non lo so, perché purtroppo anche per fortuna di quelli che possono farlo, oggi è molto facile andarsene dal sud ed emigrare in Europa, in altre parti del nord Italia, certo. Ma anche d'Europa, e per molte persone è più facile fare questo che restare nel sud a combattere in un ambiente ostile, compreso me. Anche me ne sono andato. Grazie professore, buona serata. Grazie a voi, arrivederci.